300 watt che ti segna lo strumento, mica un'antenna sta andando con 300 watt, sta andando con la metà dei watt, capito? Tutto per colpa del cavo. Vabbè, comunque, chiudiamo questo discorso, non mi interessa più. Ok, ti stavo dicendo, volevo dire una cosa a Vittorio, mi sono etichettato inerente ad altre cose, ma mi sono etichettato. Vabbè, riprendi Gianfra, vai. O riprendi tu Gianni se vuoi riprendere, vai. Chiuso il discorso, a me non interessa più, ognuno faccia quello che vuole. Le cose sono scritte, non è che sono posate nell'aria. Sono scritte, qua c'è l'RG58CU, l'RG59U, l'RG213RF Systems, l'H1005, l'H155, l'H500, il sostituto l'H100, l'H1000 che è quello che c'ho io, e poi c'è l'Icom, eccetera, quindi sono carri come quelli che tu già fatto. Sì, Claudio. Sì, purtroppo ti ho già detto, Claudio, che quando sono andato a fare le misure alla distanza di 50 metri, con l'H1000, ho visto quello che mi segnalava, cavolo, ho detto, ma il cavo è buono, questo è buono, però è la lunghezza, dopo tanti metri ne hai voglia tu di stare lì, o dire come dice qualcuno, ma spendere tanti soldi, vabbè, non è che se vuoi raggiungere un punto con quelle distanze c'è poco da fare, devi spendere i soldi perché il cavo costa molto molto caro, e quindi il cavo fa parte dell'antenna, l'antenna è la cosa più importante, che c'è una stazione, e quindi la strada è obbligata, ecco, puoi risparmiare sull'apparato ma non sul cavo, soprattutto se ci devi far presentare potenze elevate, ecco. E noi per le altre frequenze, ripeto, a quella distanza l'unica è stata il Celflex, perché di cavi di buttati qua ne ho tanti, anche di H1000, di Amphenol e così via, però è così, c'è poco da fare. Vito, anche se devo dire una cosa, no, me la ricordo più, non me la ricorderò, pazienza. Riprendi Vito la vecchiaia, visto cosa fa. Succede. Aspetta, Gianni. Sì. Ma davvero RG58? Sì. C'è un RG58, ma Claudio lo sa benissimo perché abbiamo aperto per l'antenna insieme, che tipo di condominio ho io. Se avete il capo grosso mi fanno togliere tutto. Già ho fatto una lotta per mettere l'antenna. Se poi metto il capo grosso non è che perché io non sappia che abbia perdite, eccetera, eccetera. Però mi sono accontentato perché la mia situazione condominiale non mi permette. Tu perché non le hai messe le antenne sopra il tetto, Vito? Perché il condominio non te lo permetteva, e quindi è la stessa cosa per me. Mi stavano facendo casino, mi hanno dato lettere a casa, eccetera. Cioè, lo sa anche Claudio, non è che perché Claudio mi ha aiutato a mettere l'antenna, eccetera. Lo sa com'è la situazione, ha visto anche il condominio che mi ha detto, dove ti sta attaccando? Non mettere sti lampi qua, boom, va. Sì, ma infatti già io poc'anzi, se è stato attento, ho detto, ognuno usa, a volte usa, si usa l'RG58 per comodità e per fattori personali, e questo è uno di quelli fattori che hanno fatto sì che Gianni montasse quel cavo, perché altre alternative in quel condominio non ce n'è, sono fatti di pietra, di legno e di segatura, dice qualcuno, capito? Perché non capiscono che non è solo un hobby, ma ci sono dei documenti ben specifici che permettono a chiunque in quel contesto di Gianni, non certo te lo permetto io di entrare a casa mia perché quella è un'altra cosa, ma in quel contesto di Gianni che il terrazzo è condominiale di tutti, io salgo con tanto di documentazione e metto quello che mi serve per trasmettere, invece lui l'hanno costretto a mettere quel cavo fine in modo che non si vedesse in facciata, è tutto lì il problema. Io l'ho vissuta perché con Gianni abbiamo fatto sia il primo impianto che il secondo impianto, ma già dal primo impianto abbiamo avuto dei grandissimi problemi proprio per installare questo cacchio di Mantova, capito? H155 già risolve il problema. DDL, ciao a tutti, Fabrizio. È quello che gli ho detto io, l'H155 è appena appena più grosso della 58. ma c'è il 213 bianco, se ti interessano 50 metri di RG 213 bianco K. Sì, ma Vito, quello lì è fino quanto l'RG 58 praticamente, qualche millimetro in più, va benissimo e costa poco. Sì, ma se il problema è il colore, se per il colore mi metto il 213 e vado, c'ho un caso che va bene e non dà pugni negli occhi ai condomini che hanno così le ciglia lelicate. Ma il 213 è grosso, non può mettere il cavo grosso, a quanto ho capito la discussione. Ehi, Vittorio, non può mettere il cavo grosso, ma ti pare che noi con Gianni, già dalla prima volta che abbiamo sostituito l'antenna, abbiamo fatto un impianto bellissimo perché c'ha tutti i tiranti, occhielli, cioè non manca niente in quell'impianto di Gianni Esterno. Mi pare che, cioè, con l'esperienza che abbiamo, andiamo a montare un RG 58. Ve l'ho anche detto Gianni, già compra il 213, quello buono montiamo quello. Non si può, mi ha detto qua, non si può, se vedono quel cavo in facciata ce ne fanno togliere tutto. Quindi l'RG 58, che lui l'ha fatto passare in una maniera tale che entra immediatamente nella sua finestra, nella sua, capito? Da meno all'occhio, è un casino, Vito, ecco perché Poccanti ha detto, il RG 58 si usa in casi estremi dove proprio chiaramente per necessità, per cosa, non per prezzo, bisogna tutto il genere, il prezzo della, lui lo sa che quel cavo ha determinate perdite, che le può creare problemi, che dura dall'estate all'inverno, anche se per 12 anni lui l'ha usato e va benissimo, ok? Sì, la realtà è quella, però non lo può montare, non lo può montare, ogni volta che lui apre quella porta, cazzo, mi ricordo del tetto che è anche sua, perché lui è proprietario dell'appartamento, quindi ha tutto il diritto di avere le chiavi come gli altri e di salire e sedersi sopra a prendersi il sole, è un problema, o no Gianni? Già lo sa che fa Fabrizio, la volta che siamo saliti proprio te lo ricordi con l'antenna che è uscito quello lì dalla porta, che ho detto beh problemi c'ha, se problemi li risolviamo subito, te lo ricordi? Sì che me lo ricordo. Cioè sembra che ci siano cazzo le zecche quando sali su, che si affacciano tutti fra. Purtroppo è così. Io sempre le RG 58 usato, ma non per i soldi, perché grazie a te i soldi per comprarlo ce li ho, però non è quello il problema. Il problema è che non posso mettere un cavo che dia l'occhio, capito? Già l'ho fatto passare dietro il pluviale per non farlo vedere. L'ho legato con delle fascette, ma c'è un punto dove avrei dovuto chiedere al condomino di farmi entrare in casa sua per legarlo al palo. E non l'ho legato, l'ho messo un po' in tira di modo che non ballasse, però non mi ha fatto entrare, capito? Gliel'ho chiesto e mi ha detto no, non lasci perdere, no. Vabbè, fidati le luci. Tu già lascia le RG 58, lascia tutto così com'è, sai come ti ho detto io, come ti ho detto Vittorio, penso che tutti abbiamo detto la stessa cosa, comprati uno scaricatore di massa e fai sì che lo scaricatore di massa sia prima di arrivare il BL alla radio e tu vedrai che il problema l'hai risolto, ok? Questo è quello che ti posso dire io, poi altro non ti posso dire perché conosco perfettamente il tuo problema e capisco qual è il problema soprattutto, perché in quel condomino non abita gente, capito? Sembra che abitino i paradini dell'universo, capito? Tutto quello che si muove, si fa, cazzo, ogni volta che ti vedono salendo a piedi, sembra che li vedi dietro la porta, dallo spioncino, guardando chi è che sta salendo a piedi sopra il tetto. Ah, per caso, per favore, lasciamo perdere. Ciao Fabrizio, buonasera, ben ascoltato. Avanti Gianfra. Sì, infatti, anche io stavo per dire il 155, a costo di verniciarlo, poi dipende sempre dal colore della facciata. Ciao Fabrizio, ben ascoltato, buona serata, riprendi tu Fabrizio. Sì, ciao Gianfranco, ben sentito Gianni, Vittorio, Claudio mi sembra, poi non sentito. No, rimango in ascolto, sto ascoltando, sto compilando quelle celle maledette che non mi mandano in maniera elettronica, cazzo, maledette. Sono 3 giorni. Prosegue vi ascolto. Comunque 155 già, è anche un colore che si vede di meno del nero e grigio. Basse perdite, io consiglio anche al mare lo utilizzo, perché fino l'utilizzo per l'antenna VHF la 510. Ho misurato, va benissimo, vabbè, non è un moto, direi, avrò fatto 20 metri di cavo, 15, quindi è poco, però voglio dire, va bene, qua lo utilizzo anche per le, avrò 25 metri di cavo, lo sto utilizzando per le antenne verticali V e VHF, le 510, le X50, le X200, quelle, va benissimo, fino, occupa poco spazio, poca perdita e va benissimo. Ma il PL ha bisogno del riduttore o puoi mettere il PL normale? Va bene i PL normali, vanno bene i PL normali. E tu, ma è grande quanto il l'R58, così, 58, sì, no, non mi sto sbagliando, sì. Lo stesso, avrà qualche millimetro in più, se prendi, mi ricordo che avevano preso dei PLN, mi sembra, particolari, e lì io, vabbè, quel giorno gli ho fatto una ritoccatina, ma erano quelli a crimpare, per capirci, molto particolari, però per quegli altri vanno benissimo, io uso senza problemi, quel cavo ne ho sempre da parte, quando devo fare qualche spezzone, qualcosa, uso quello, va benissimo anche in stazione, se non esci prima degli amplificatori, usi quello, bassa perdita, bellissimo, va bene, è flessibile quanto il RG58, va benissimo, mettiti quello e hai finito di soffrire, mi sembra che per dei 3-500 watt li dovrebbe anche reggere, mi sembra. Adesso vediamo, adesso risalire sopra, ma io già, una cosa risalire sopra, che il primo che ci affaccia è quello, un baranchino a capo, io per favore, compra il capo, poi mi avvisi, abbassiamo l'antenna e se ne fa la calata nuova di 155, e tu hai risolto il problema già, e la RG58 mettilo in disarmo, berretta a me, e la realtà della cosa è quella, basta, non si discute più, è un problema che nasce, nasce, e boh, non vanno da là, quindi tu compra il capo, ordinati il capo, a misura unica, a misura, lasciatene 3-4 metri dentro, poi si taglia a misura e si fa la calata nuova ai 155, vedrai che nessuno dice niente, anche il primo che si presenta, quando so, se ci sono io, il primo che si presenta te lo curioso. Sì, riprendiamo a tirarci come scavuzzalo, c'è un... Come mi ricordo quell'imbecille del geometra tassellando per mettendo gli occhiali per i tiranti, ma come ti permetti? Ma chi sei? Ma lo già voi? Questo è il muro, è condominiale, non è il muro tuo. No, no, lì non va bene, allora l'abbiamo messo all'interno, ti ricordi? Quell'altro era salito a rompere le palle, quell'altro che c'era posto al bordo della baracca vicino, ma lo già voi? Ma no, ma guarda veramente, con tutto rispetto Gianni, hai un condominio veramente che fa impressione, per carità di Dio. No, ma adesso sono anche cambiati i condomini, qualche condomino è cambiato, adesso c'è gente più tranquilla. Tu compra l'H155 Gianni, poi quando ce l'hai a me mi avvisi, lo sai che problemi non ce ne sono, è facilissimo fare quel lavoro, noi un'oretta abbiamo fatto tutto, fascettato, chiuso e vedrai che avrai un'ottima ricezione rispetto a quel cavo, un'ottima trasmissione e non hai più soprattutto questi rientri di RF che ti sta succedendo spesso e volentieri già, berretta a me, vedrai che non ne parlerai più di rientri di RF, di fischi e di fiaschi, questo è il mio punto di vista, perché ti ripeto è successo a me quando ero a casa di mia mamma e è successo a me quando inizialmente sono arrivato qua che usavo dei cavi del cacchio, perché le calate allora ne avevo poco perché ero nono piano, avevo 10-12 metri di cavo, però usavo dei cavi di quelli cracobaratto e mi ricordo proprio, mi sembra che nella Mantova, perché le finestre erano nuove, eravamo appena arrivati, mia moglie non voleva bucare e quindi mi pare avevo messo tutto un RG58 e facevo, mi formavo tutto il condominio, quando ho iniziato a sistemarmi bene l'impianto i problemi sono spariti completamente, sono fatti in conto dal 1987 che abito qua, quindi va bene, dai, ok, chiuso il discorso dei cavi, allora ne è intervenuto anche Fabrizio, quindi le opinioni sono quelle già, cambiamo questo cavo e ciccia, io quando sei pronto mi fai un fischio e lo mettiamo nuovo, avanti Vito. Ok, ciao Fabrizio. No, da tener conto, io te lo dico perché una vita che faccio impianti d'antenna, se il problema è l'impatto visivo, si nota meno un RG213 bianco di un RG58 nero, tutto lì. Quindi se per l'impatto visivo che gli dà fastidio passi quello, hai un cavo come Dio comanda e l'impatto è quasi inesistente. Che cosa è successo? Non lo so, stavo commentando il cavo per Gianni. Ti ho detto, se per l'impatto che dà fastidio, che non vogliono vedere perché si nota meno un cavo bianco o da 10 mm che uno nero da 5. Ma credimi, guarda, io ho vissuto un'esperienza che non ho mai vissuto da nessuna parte, proprio lì da Gianni, montando l'antenna la prima volta, e la seconda, grazie a Dio, è andato tutto bene. Anche quando è andato Fabrizio a fare una riparazione è successa la stessa cosa. Sembra che debbano controllare a te in quel condominio. Ogni volta che sentono la porta che si apre di su, noi siamo a porta in ferro, eccetera, fa un po' il casotto, ecco, tutti o si affacciano o salgono a vedere cosa stai facendo. Ma cosa vuoi? Perché in molti condomini ognuno sale e fa quello che vuole, poi quelli che abitano sotto tetto o sotto terrazzo si trovano con infiltrazioni d'acqua e poi a riunire il condomino a fare i lavori ci passa una vita molto spesso, quindi fanno da guardiani e buona parte di condomini, perché in certi palazzi io sono una vita da un condomino all'altro, quindi sono tutte problematiche che conosco da una vita. E alcuni appunto chiudono anche se dovrebbero aver diritto di accedere, e ci sono sempre queste guerre interne. Gianni è un proprietario, cioè mi ha raccontato che per farci la chiave, la coppia e la chiave, l'ha dovuta fare di rapporto, ma non esiste, capito? Ma non esiste. Cioè stiamo parlando di un condominio, di un padrone condominiale, come sei proprietario tu del tetto, sono proprietario io, perché la legge dice che tutti i condomini hanno, mi sembra, un ottavo della parte del tetto. Quindi è normale che se io devo salire, sanno tutti che lui ha un'attività radiantistica, un hobby, una cosa sua, e deve montare un'antenna. Stiamo parlando di montare un'antenna, capito? Stiamo parlando di montare un'antenna. Non stiamo andando a prenderci sole o a fare una partita di pallone, perché tra l'altro è anche bello il tetto di Gianni, perché è tutto in piano, è molto bello, non è come il mio che è sfiorente, pericoloso, eccetera. Capito? Quindi nessuno sta andando a giocare a pallone, sta andando a fare un lavoro che lo fai bene, perché Gianni su queste cose non si discute, è pignolo, fatto bene, e tu devi andare a rompermi le palle e controllare cosa sto facendo. Ma state a casa tua. Sì, ma è così, condomini è casa tua, è anche casa mia, e quindi basta vedere questo tetto. Questa antenna l'avevo piazzata con Walter quando eravamo ragazzini, e infatti stavano facendo macello e sta gente, io non la voglio vedere, c'era un brindisino nel palazzo, non la voglio vedere quell'antenna, levatene gli occhi. Hai capito? E quindi è inutile, è sempre storia vecchia, ma è così. Poi all'epoca, quando vedevano antenne 27, era guerra sempre, poi una volta da radioamatore le cose cambiano, ma quando era 27 eravamo proprio additati, anche se la mettevi solo per ascoltare. Sì, a me io ho 75 a casa di mamma ed era una lotta continua, cioè, più avanti di me c'era Torri Burroni, che gli era radioamatore. C'ero io, poi a fianco c'era 2 a 3, c'era Gavino Miglieri, che non c'è più, è morto, c'era Antonio, eccetera, il resto era, almeno il resto perché era il suo, cosa. C'era Gavino Bolzano, cosa non era, che era il Gappettoni, insomma eravamo tutta una greffa lì. Dove mi ricordo, io sempre io a lui, è proprio da lì che mi è venuta la passione della radio, quando lui era CB, GT2 Manola, che era la moglie. Quando è stato l'attore che abbiamo montato le vettive è successo un patatrac, proprio queste antenne che giravano, queste cose che vedevano, sembra che c'erano gli UFO, capito? E a me capitava che io già, tu hai iniziato a lavorare 16 anni, quindi da scuola poi andavo al bar a lavorare, e bussava e suonava il campanello a mamma, cioè, mi sta disturbando il televisore, suo figlio, ma se mio figlio non c'è, un minimo disturbo etere, che il problema qual era? L'antenna di Carlo Sparviero, ma non esiste, capito? Era un po' più visciati, ma radi li sai vedo. Sì, così, perché quando non si conoscono le cose, l'ignoranza porta alla diffidenza e al sospetto. Io ero, quanto ero? 16-18 anni, non entravo in 27, se non 20 pure. Nulla, ogni tanto se qualcuno è quell'antenna, mi prende il segnale. Ho detto non prende niente. E poi lei quando parla disturbo, io sono, ma c'ho radio, non c'ho niente, c'è il cavo arrotolato in soffitta da 20 anni, quindi però è così. Normalmente succedeva che i CB, linea retto, sovramodulazioni, modulazioni sparate con i microfoni, armoniche a non finire, quindi le interferenze c'erano, quindi uno disturba e poi gli altri 100 ci rimettono. È sempre stato così. Benemela, vado a mettere legno al caminetto, ci si sente dopo. Ciao. Ciao, ciao Vittorio, grazie per le chiacchiere, grazie dell'intervento, grazie di tutto. Dai, io rimango un po' in ascolto e arrivederci, ci sentiamo dopo. Non so se è rimasto qualcuno in questo canale. Ci sentiamo dopo. Io sono al telefono. E io a dopo, già farà che mi sfotto un attimo da qua, perché anche io devo preparare qualcosa per cena. Dai, ok, a dopo a tutti, un abbraccio a tutti. Sì, quando ti entro ti faccio una chiamata qua. E io, d'accordo. Ciao, ciao. Ciao, ciao Vito. Già, tu sei? No, sono Antonio, sono, buonasera. Ciao Antonio, io mi sto preparando a portare il cane. Non so se Gianni è al telefono, se è rimasto qualcuno qua, io mi sto preparando, ma proprio un quarto d'ora, giusto per portare il cane in giù, poi risalgo. Se aspetti, già sono qua. Facciamo un controllo, crack. Quanto sto arrivando? 9:20. Sono 9:20. Ma cosa vuoi Antonio? Non si sente ho detto 40. Scappa, strano. Ora. Adesso com'è? Quanto è adesso il segnale? Sì, tutto sciatto. Sì, come aumentato? Prova. 2-3, prova radio. 9:21, 9:22, ma sei lì Antonio, non sali più di tanto. Ok, va. Così va meglio, vero? 9:20, come sempre. Cosa stai combinando? Ma niente, stavo provando una cosa, Ma non è Saturno adesso, ho diminuito un po', dai. Sì, per me c'è sempre Saturno, non è la tua modulazione, è bella chiara. Vabbè, quello lo so. Cappa. Hola, hola. 1, 2, 3, prova. Vabbè, andrà bene. Perlomeno. Non ti basare su, ce l'hai il rosmetro, un attimo, dove, non ti ho capito cosa stai usando, non guardare lo strumento del lineare, no? Guarda lo strumento esterno, se devi sciare, quegli strumenti servono solo per accordare, basta, per fare l'accordo, ma non sono strumenti affidabili, ci vuole sempre un watt esterno per sapere quanti watt ti sta dando, magari ti sta dando meno watt di quell'altro. Non so, vabbè, dai, dovrebbe andare bene, cioè, adesso dopo lo provo a attaccare nell'altro baracchino, questo è un baracchinetto, non è che sia chissà cosa. Sì, ma io ti sento sciatto, Antonio, se stai usando quel lineare di, per capirci, del mio vicino, sei sciatto e il segnale non cambia. Da me non cambia assolutamente col K. Se ti danno altri segnali con i baracchini, io te lo sto dando col K, con 140 che è abbastanza preciso e ordinato. Tutto qua. Guarda, è entrato anche Marco, io ti sento sciatto. Se stai usando quel lineare di quella persona là, io ti dico che il segnale non cambia, i watt sono uguali a tui. Cappa, va. Aspetta, non va bene questo, aspetta un attimino che faccio una modifica, non va bene. Un attimino. Prova tu a vedere, buonasera. Buonasera, 9:03, prova già. Quasi 9:30. 9:30, sul più del 9:30. Ma siete vicini Gianni? Lo stesso segnale di Claudio. Io seguo un desivato. Ma siete vicini, capito? Siete vicini. Lui la prova deve fare, vabbè io sono un po' favorevole ma sono più distante, capito? Per me non cambia qua, 9:20 con un lineare e 9:20 con l'altro. Prova a attaccare anche tu. Ti rendo conto che quello lì è un valvolare, eh? Cos'è? Il BV 730? San Paolo Silvestre. No, ma non dovrebbe essere, non lo so cosa sta usando, se non dice cosa sta usando io non posso farle dei controlli definitivi. Per me il segnale è sempre quello al turno, 9+20, 9+10 liscio, 9+20 attaccato. Con questa radio migliora la modulazione e basta. Non c'è una portante. No. Non mi sono portante a Santiago 9. Vabbè dai, date i controlli a Antonio, io scendo un attimo a portare il cane e poi risalgo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Claudio, ciao Gianni. Ciao Marco, buonasera. E allora Marco. Ella. Ecco qua. Ora deve andare un po' meglio, dai. Sì, adesso me lo satura. KK, com'è? Bonina. Come è fatto? Poi passa giù. 1, 2, 3, prova radio. Va. Vai, vado al massimo. Ora. È un po' compressa, ma non è satura. La radio non è chiara chiara, naturalmente, è un po' compressa. Però non è satura, la radio si può già si capisce. Poco fa ho toccato una cosa che non capivo cosa era. Adesso sei chiaro, la sai usare, la sai. Sì, già andenti, non ti preoccupare. Ora, sempre 9:20 e 6:4. Cioè, non cambia. No, 9:10, 9:20 a me Antonio mi fa col K, sia col 140 che col 430. Non, a meno che non metta un lineare più grosso di quello che ha, allora io le differenze te le faccio vedere e aumenta, ma se vatte sono quelli, anche se sempre quelli, il segnale qua non cambia. Ho scoperto gli altarini oggi, Claudio, ma... Che cosa? Quei rosmetri piccoli che usavo io, mi diceva il lineare dava 70-80 watt, no? Pilotandolo con 4. In realtà sono 55, massimo 56 watt, fai 55. Con circa 4 d'ingresso, 3,9, dai, 55 watt. Sento li dassi, li dai 10 watt, ma ti ammazza la radio e ti ammazza anche il lineare, capito? Ora si spiega tutto. Comunque meglio 55 puliti che già lo sai, no? E quindi ne conviene che, come dico io, per poter fare delle misurazioni ben precise, non basatevi sugli strumenti che hanno i lineari o su strumenti che valgono ben poco. Quando hai uno strumento professionale come quello che hai comprato tu, che è benissimo, professionale, allora ti accorgi se diciamo cazzate a volte, capito? È successo a me, cioè con uno strumento della ZG l'amplificatore mi dava dei watt e l'ho attaccato con un altro strumento esterno professionale e non fa la metà, capito? È così, la realtà è quella, non c'è niente da fare. Quindi Antonio, non so cosa stai usando, non mi interessa saperlo, non ho detto niente, quindi, ma se stai usando un altro tipo di amplificatore che ha le stesse caratteristiche di quello, infatti non cambiano, il segnale non può mai aumentare, perché qua è sempre uguale, a prescindere che possa arrivare 9:30 Gianni o 9:50 a te perché siete vicini, a me mi arriva sempre uguale. No, ma comunque ti aumenta da 9:10 a 9:20, due punti S di guadagna, ma non va oltre, diciamo. Per andare oltre si deve pigliare un linearetto minimo come quello di Gianni. Poi se vuole andare al top si piglia un linearetto come il tuo. Cavo permettendo, Antu, ricordati, dopo una certa potenza devi andare di 213 minimo. Allo stato solido che è un lineare, da 600 euro. Sì, comunque altro, sempre quello che conta è la distanza, no? Ora che non vuoi più nessuno, non stanno entrando molto nemmeno dal Alghero, anzi quasi niente. Polo Torres non modula praticamente quasi più nessuno, tranne quello del faro non è più entrato. Come si chiamava Claudio? Quello del faro? Giona Faro. Vabbè, si è allontanato. Gianni, prima. Cosa? Quello in zona faro di Polo Torres non è più entrato nemmeno lui. Claudio, no, mi pare ha problemi con l'antenna, non lo so, l'ultima volta siamo seduti, ma lo passo già. Scusate, io mi sto preparando, mi sto battendo le scarpe. Però ci sentiamo sempre su WhatsApp, ce l'ho su WhatsApp, ci sentiamo anche l'altro giorno. Capo. Capo, stavo seguendo con piacere il discorso di prima, i capi, vabbè, poi era una cosa che avevamo già ne avevamo parlato, no? E come ti hanno detto tutti gli altri, l'H155, a parte che ha minor perdita, è paragonabile al 213, ha una migliore schermatura, molta più calza, anche il foglio d'alluminio, capito? Io ho visto un RG58, sai quelli delle basi magnetiche Midland, no? Come sono andato a rifare il PL, che ho tolto la guaina, passando il dito, non tirando forte, passando il dito, la calza si è disintegrata. Sai come quando proprio veniva via, capito? È peggiorata la qualità delle cose. Eppure ce l'ho da 10 anni con la base magnetica, era già un prodotto di 10 anni fa, eppure deficitava già come calza, capito? E quando perdi la schermatura un po' di rogna le dà, vabbè, comunque tutto risolvibile, a tutto c'è un rimedio tranne che la morte, riprendi Gianni. Io avevo 25 metri in all'armadio di RG58, cosa facevo? Ce lo buttavo, questo quello che avevo. Comunque mi è sempre andato bene, a me io non rimango mai con Santa, ma mi è sempre andato bene il RG58, non mi ha mai dato problemi. Adesso c'aveva questo problema all'apparecchio, adesso bisogna essere dall'antenna, dal capo, da che cosa è. Bisogna sempre vedere quello, perché potrebbe essere anche l'apparecchio che c'ha qualche cosa in perdita, saluto che sta andando via, che dopo stai giù il cane, dai. Ci sentiamo, buona serata, buona continuazione del question. Questa sera ne abbiamo anche sulle scatole di tutto questo discorso. Buona serata. No Gianni, sono belle cose. No, tu adesso tieni sotto controllo di nuovo quella scarica già. Se ti si riattiva di nuovo quella scarica, se stai sotto controllo e la scarichi, fatti il PL e la scarichi e vedrai che non succede niente. Poi si vedrà, quando se lo vuoi cambiare lo cambi il capo. Anch'io sto andando ragazzi, vai, vado a portare il cane pure intorno. Ho visto un segnalone a 9.50, chi è? O è Roberto Quadrato o è Antonello Motopompa, chi è? Il cane per il fiata. Allora. Ciao Antonello, buonasera. Mi comincia a attaccare questo il vatti che non ho capito cosa hai detto. Cosa hai detto? Ciao Cla, buonasera a tutti, ben sentito. E anche agli altri. Aspetta un secondo. Ho appena acceso uno e l'altro. Aspetta 2 minuti. Se non mi capisci. Aspetta un secondo, stacco. Aspetta, se mai. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Oh, finalmente, sì, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. No, ti devo attenuare Antonio quando attacchi, se no è un casino. A differenza mia, che tu mi senti bene, con quell'amplificatore ti devo attenuare. Dai, ti lascio in compagnia di Marco o di Antonio, io vado a portare il cane. Avanti Antonio. Papa, buonasera, buonasera, perché che devo entrare? Avanti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Canale 10 di Sassari, basta! Capa, con che abbiamo l'onore di parlare? Ci ha fuso, Capa, mettiti un pochettino, non sei uscito di radio, rifare il passaggio, avanti! Chi sei? Adesso fratello, se mi senti quanto esco, grazie, basta! Capa, ti sento benissimo, chi è avanti, come ti chiami? Massimo, c'hai il microfono che non sta funzionando, capito? Mettilo a posto, dai, ciao. Capa Massimo, mi sta arrivando abbastanza forte qua, da che zona parli? Deve essere lì a Predaniele, è un camionista, tu, capito? Però c'è il microfono che a volte funziona, a volte no, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ci sentiamo. Capa, sta arrivando basso in modulazione. Antonio, come ti arrivo lì? 9.25.25, guarda che ho trovato quella roba che mi hai detto tu. L'ho trovato stasera, quindi quando vuoi, andate lì per domani, così che te lo installo, non c'è problema. Capa, vai. Se riesco passo domani, ok Antonio? Maria, d'accordo, non c'è problema. A posto. Come è passato? E c'è problema? Se funziona questa cosa, ancora. La gocchiata è bassa. Scatta, cosa dico Santiago 3? Sono passato a quel radio e siamo a posto stasera. Si chiami vista. Capa. Hola, a dove? Avete dato la te adesso? Tempo? 1, 2, 3, prova a radio. 9:25, sei radio 5 chiara. Capa, te cani non pompa la sangue, sta banda laterale, ciccio. Banda laterale, io sono un AM, non sono banda laterale. Tu mi sto sapendo un lineare. Che la piano. Sei saturo. Sono saturo. Oh, aumentato Antonio, aumentato. Matteo, ti ricordo che Antonello ti sta dando il segnale con un baracchino, io te lo sto dando con K, non ha aumentato niente. Che marasucci. Non è che lo puoi spremere più di tanto il lineare, insomma, più di tanto non c'è un limite oltre il quale non va. Non lo so proprio, dovrebbe andare. Sì, solo saturo, stai uscendo da schifo e il segnale sempre uguale. Capo, dai, lo mettiamo così che va bene, va. Aspetta, ora, così va meglio. Volete farne di una 500 o una Ferrari, cazzo? Anto, che la gira di 200 volti? 9, 10, liscio, 9, 20, attaccato. Ed è un ottimo segnale. Se tu vuoi aumentare l'ingresso del baracchino per avere 10 watt in più, 20 watt in più, non esci di radio da schifo. Spiegaglielo tu, Marco. Capo, e adesso mi devo fare una modifica, un altro che ne ho. Non li fa più niente, capito? Non li fa più niente, se li cambio quella cosa che devo cambiare non ha più problemi. E va bene poi. Ok, ma non spremere limone, perché poi quando arrivi alla buccia non c'è più niente, stai attento a tutte queste manovre che stai facendo. Per uscire bene ci vuole un amplificatore buono che resista all'ingresso della radio e tutte le altre cose che ti ho spiegato, altrimenti non ci va da nessuna parte. Vai Marco, vai, che sto uscendo, mi sto facendo giù un botto. Cappa, in prima marcia com'è? Aspetta, ripeti la prima marcia, vai. Allora, questa è la prima marcia. 1, 2, 3, prova. Ma due ne ha, o sei? Fallo con me questa prova, io volevo uscire, fai. Metti prima marcia, seconda marcia, quinta marcia, dimmi, fammi capire, io. Allora, prima marcia, seconda marcia, terza marcia, quarta marcia, quinta marcia, sesta marcia, non cambia nulla. Tu hai visto il cambiamento, io non ho visto niente. Ma non si sente lo scatto nemmeno. A me marcia mi pare tu, sei sempre in folle, Anto. Dai, non mi fa caricare, Anto, fai la brava, io. Quinta marcia e sesta marcia, non si muove da 9:20 il tuo segnale, dai, ciao. Scappa. Allora vabbè, dai, pazienza. Non mi hai marcia, Anto, sei sempre in folle, dai, reta a me. Sono sempre in folle, pazienza, dai. Già andare a stessi. Che voce vedo la prima marcia, la seconda marcia, fissa la sesta, se si rimbalza lo baracchino, ha fatto un attore da Tino. La differenza si deve vedere a tu quando si cambia di potenza, tu potenza non ne stai cambiando, è sempre la stessa potenza, capito? Vai Marconi, riprendi, aiuto, metti a posto questa ruota incentrata che c'è lui. Qua non è cambiato niente lo stesso, non tu, se vuoi un riferimento anche qua dalle mie parti, ciao, buonasera a tutti. Meno male, sono salvo, ciao muscolo. Alla prima, la sesta, sempre fermo, sì. In folle sta camminando, vero, non ti dice di ballo. Io sono contento se te ne prendi uno come Cristiano, ma quello cammina solo in folle o in discesa. Cambia, cambio Fuller. Allora, vedi, col cambio Fuller invece già si cambia. Papa, buonasera, chi è l'amico? Sto sempre Massimo, detto profondo rosso, per gli amici, pazzo. Papa, salutoni Massimo, salutoni profondo rosso. Oh, fa un passaggio che esce, ciao Tino, un passaggio che esce e un passaggio che non esce di radio. Ciao, qui, ciao, ciao, ciao a tutti. Cristiano Bruciacca. Sì, qualcuno, guarda che siamo là in BMI, non siamo in FM, l'unico stazione di FM, siamo in AM. No, sei il biglietto di Goibri che è diverso, fidate. Io, no, forse, quello sta parlando di copino io. Boh, io dico che c'è biglietto di Goibri, a voi non lo so. Ah, come tu scendi? No, vabbè, aspetta. Sto acceso il linea per adesso. Ti ha 10 minuti, aspetta un secondo. Ecco, guarda un po' com'è. Ma lo sa tu, Marco? Forse un po' meno di quando si è entrato, però non è limpida. Vabbè, ma qui siamo a un chilometro, Antonè. Se di sempre attacchi Indy, siamo a un chilometro. Cioè, 2 minuti a piedi e sono da voi. Guarda che c'è qualcuno che vuole entrare, Marco. L'ho sentito basso basso, non, magari mi sto sbagliando. Sì, Antonè, sei Saturino, Non è chiara chiara la radio. Marco, qualcuno che mi sta a dire dove devono accelerare stanotte? Grazie, Marco. Oddio, boh, bandiera gialla, non lo so, ti non ne sai niente di più. No, bandiera gialla a parte che è chiuso, dovrò andare, boh, a qualche pizzeria, qualche cosa, perché grandi rifornitori sono chiusi. Ma cioè solo a sporto ancora si può fare, che palle di situazione. E con la specie di cosa l'ho aperto ieri, visto la mia Sassari, ce l'ho fino a Marco. Quindi per andare via a mangiare, meno tranquillo, gli portano la cosa nel camion, lui mangia, meno tranquillo, pare se ne va. E ce l'ha fino alla meccanica. La specie di mercatona ce l'ha aperto, visto mai le fotografie, una cosa allucinante. Ormai mi sa che le pizzerie hanno chiuso di tutto. Se apre quello e fa i soldi, le pizzerie sono fregate. Non sto uscendo, non sto uscendo, aspetta. L'amico che chiama, allora un passaggio esce di radio, un passaggio no. Purtroppo a momenti esce, a momenti no. Purtroppo è un casino con questo coronavirus, ci hanno bloccato tutto e di più. Sì, no, dicevano che qua dovrebbe essere chiusa la ristorazione, si dovrebbe prendere qualcosa da asporto, qualche pizzeria, qualche panino, te che faccia panini, pizze, però da asporto sempre, cioè non ti puoi sedere e consumare, credevo fosse finita, no invece il... Siamo sempre in zona gialla, dai, non è passato proprio niente quando è passata questa cosa. Sì, Antonio, ho visto il nuovo McDonald's. Ah, e quindi erano in fila fino a Canica. Per andare a mangiare porcherie, interessante. Marco, qua è una cosa buona, dai, non te ne scegli la macchina, così è. Sì, è come quelle, sì, come quei drive, così americano, drive-in, scusa. Passi con la macchina, cioè tu prenoti la roba, passi, la tipa esce credo dallo sportello e ti consegna la roba, come in America. E sai cos'è? Qua dobbiamo essere sempre filo americani, Tino. Poi a me piace il sapore del panino al McDonald's, è saporito, poi non lo so se lo facciamo in laboratorio, a Wuhan, anche quello. Però non è che sia roba sanissima, capito? Non è roba fresca, è tutta roba friggiata, congelata, compressa, tipo come Santonello, mi satura. Io sono scogliere uno a caso. No, vabbè, anche a me piace, ma di continuo, ecco. Vabbè, noi, tu devi tenere conto che noi siamo sempre 30 anni indietro all'America, quindi le cose che hanno loro sono stati di averle e poi le passano a noi. Registrato Gianni. Non sta uscendo l'amico, non ci siamo. Non so cosa dire. Si è sentito anche lo scatto del microfono da non uscire a uscire. C'è un falso contatto e devo provvedere, se no non. Profeta, ci sei. Eccomi, buonasera. Non esce di radio. Niente, portante muzza è uscita. Uscita portante muzza, ciao già. No, ma stavo dicendo, giusto appunto, sempre filo americani, McDonald's a Sporto, a lui, in tutta roba di importazione. Ciao Gianni, scusa, ciao. Ciao Tino, l'amico Massimo continua a non uscire comunque. Sì, ma infatti noi poi parliamo sopra anche perché non sentendo cosa dice. Massimo, cerca di toccare il mic o lo spinotto o qualcosa, perché a momenti uscivi anche bello forte. Dallo Smith dovresti vedere quando esci, bene o male qualche piccolo si dovrebbe vedere. Cambio radio, ti dispiace? Ehi Attino, cos'è? Si può dire? Sì, lo conosco benissimo, il 525. Chi è Radio 1? Break per un controllo, Radio 1 appena percettibile, proprio ai limiti dell'udibilità, avanti. Massimo, tu sì. Niente, non pervenuta. Sì, io sto usando il fratello minore, cioè come il 5005 in scala ridotta, più basso, meno profondo, meno largo. La Linco di X10, però il resto c'ha tutti gli stessi controlli e menu. Ah, capito. No, vabbè, era un po' senza toglierlo fuori dallo scatto, ma senza accenderlo. Ti posso chiedere il controllo radio, Marco, perché non so se ne so, magari pulendo il mic ho toccato qualcosa. Oh, ti sento normale, il segnale va bene, non è affidabile, questo è LCD e regala i segnali, praticamente siete tutti in fondo scala. Gianni, Poponio, vabbè, sta pompando, chi altro c'è? Porca miseria, anche Bombolo, comunque Bombolo è fondo scala, comunque anche senza lineare. Bombolo ci sì, no, si è allontanato, magari sta mangiando. Sì, mi sembra che vada bene, vai un po'. No, vabbè, volevo sapere se c'era da aumentare il radio o meno, o diminuire o alzare i toni. Tieni presente che è più 5, quindi. No, io lascerei tutto così, non toccherei nulla. E poi il mio udito non è così pignolo, sì, bene o male la radio, cioè, va bene, niente da dire. Va bene, allora lascio così e lascio andare un po' anche lì, perché sennò magari si addormenta e insomma, poi sai, le cose è inutile averne tante e non utilizzarle. Se non le utilizzi si guardano, quindi ogni tanto bisogna far scaldare anche a questi, dai. Sì, infatti, e io una palla ogni tanto, se ogni giorno uno, l'altro, se li lasci fermi guai, sicuramente comincia a non funzionare una cosa, a non funzionare l'altra. Comunque lo sai che, come si chiamava, l'Omega Force, il Magnum Omega Force, no? Nonostante vantassero i componenti classici, nonostante vantassero la pista in rame di generose dimensioni, era surdimensionata rispetto ai normali baracchini, ha dato più rognette di molti altri apparecchi, persino di questi SMD, piccole rognette, però sempre rognette. Passava a lasciarlo fermo due settimane, no, un mesetto, andavi e c'era una piccola magagnetta, cioè alla fine non. E poi facevano TV folle, quello sì. Vabbè, ogni tanto bisogna subire qualche cosa per poter andare avanti. Se si trovano queste magagnette vuol dire che sono state utilizzate e si vedono edifici. No, io devo dire la verità, per quello che l'ho pagato, questa radio penso che vada bene. Poi ero più portato a utilizzare il Lincoln, il periodo Lincoln, nonostante tutto sia una radio molto più vecchia di questa, però credo che a parità di cose il 5005 era qualcosa in più, ecco. Sì, un po' più moderno, sai, gli mettono tutte quelle efficaciosità che piacciono adesso, l'eco, l'autoascolto, io, a me, ma anche qua c'è, non uso nulla. L'eco intanto l'accendo per vedere se funziona ancora, tipo così. Così, così. 1, 2, 3, si sente. Ecco, adesso lo posso spegnere. Fatto, funziona. E tante cosette non si usano, ma alla fine poi siamo sul 10 sempre, mandare a fare l'epoca se ne fa, seppure in estate quando c'è propagazione, primavera estate, così FM non se ne usa da noi, e praticamente è uno spreco di risorse, di materiale, attrezzature per milioni, e poi siamo sempre in AM, sempre solo in AM, sul 10 poi. Poi lascia perdere Marco, sì effettivamente, vabbè, poi dipende a chi piace averle, magari a chi piace utilizzarle anche quel poco che si utilizzano e le si comprano, però sinceramente non ne vale più la pena. Prima io parlo nel lontano 90, 91, 92, quegli anni lì, dai, che si riusciva a fare un po' di divertimento dalla radio, ecco, perché ci sentiva, facevi dei questo così gioiosi, io mi ricordo addirittura, ma anche alle 4, alle 5 del mattino, adesso non voglio, c'era Marco 131 che ci metteva a raccontare barzellette, per dire, e noi che rinnovare dovevamo andare a lavorare, però ti faceva piacere ascoltarle, fare, giocare, oppure quando eri libero, perlomeno io parlo di me, e quando ero libero gli dicevo, dove stai andando? E devo andare a consegnare il giornale, io passo a casa, facevamo la nottata consegnando giornali, era un modo come un altro per passare la serata e divertirsi. Adesso non c'è più niente, no? Adesso siamo in quattro gatti, no? Ecco, per me dai, ce la risentiamo e dopo mangiare, ok, ciao. Avete parlato in 18, forse 19, non lo so, avanti Claudio. Beh, se rilanciamo vuol dire sentito a me, ho detto che c'era anche qualcuno che andava a recuperare gli amici alle 2 e 3 di notte, non ti dimenticare? No, sì, io non me ne dimentico. Allora, diciamo che avete parlato in tanti e ho riconosciuto la tua timbrica di radio in lontananza, ma non ho capito niente di ciò che avete detto entrambi, quindi non so neanche chi c'è dopo di te. Avanti, ti ha parlato assieme a me. Massimo, era Bombolo che ha detto che fa con X, e l'abbiamo anche rilanciato prima e probabilmente sta cucinando. Massimo, via avanti, prova a cercare di uscire in radio, tocca roba, dai. Ok, io ho provato a controllare il cappello dell'antenna, uscita entrata. Sì, ma non è l'antenna, è questione di microfonia. Sì, adesso stai uscendo. Claudio, riprendi tu, dai. Sì, ok Massimo, infatti sicuramente è un problema di microfono, di antenna. Sì, ma è così. Lo sai che noi due abbiamo vissuto l'era del boom, il 27, quindi ci collegavamo col baracchino, ce ne trovavamo col baracchino acceso, tu ce l'avevi addirittura attaccato al letto, quindi mi ricordo perfettamente. Perciò si può discutere di tutto, ma di quell'era lì era troppo bella, ci siamo divertiti tantissimo, perlomeno io mi sono divertito tantissimo con tutta la greffa che eravamo, e il tempo era così. usciva al lavoro, ci faceva prima di mangiare accendere il baracchino, vedere chi c'era, fare il rambo, e tante volte abbiamo mangiato anche col piatto vicino al baracchino. Oh, io avevo, Marco, io avevo una, il letto vicino alla finestra, no, dove c'era l'entrata del carro, e immaginate una sedia normalissima con l'amplificatore, ma l'amplificatore, l'alimentatore in terra e la radio sopra la sedia, col mic, e poi invece ci siamo un po' organizzati, avevo una scrivania e va bene, però la cosa bella era che cioè, tu devi passare, tu con il caso, passavi le nozzate così, vabbè. Altri tempi, oggi no, non è più così. Poi c'era qualcuno che veniva a prendermi in macchina o in moto, insomma, già le abbiamo combinate. Poi mi stai indicando la pizzeria dove fanno le pizze buone a domicilio? Sì, dipende sempre da dove sei, dove ti trovi Massimo? Alla Lidl, ma a Predanieta? Io sento, lo sento bassissimo, quasi non riesco a capirlo. Non conoscendo il radio, il microfono, ma sei duro di comprendorio, Massimo. Massimo, sei duro di comprendorio, ti ho detto di aprire il microfono e controllare che è il microfono, oppure il cavetto del microfono, non c'entra niente l'antenna. Tappa, da un'ora quasi che te lo dico, il microfono, il segnale è sempre quello, ma non esci di radio, quindi quando non esci di radio è il microfono, come dice qualcuno, capito? E sì, ne abbiamo conosciuto le radio, le tre caballacche, adesso Maria Gaia, oh vabbè, bei tempi, adesso siamo quattro gatti, e andiamo avanti con quattro gatti, fila per tre, con il resto dei due, vai. Marco Antonello, l'hai sistemato con questa saturazione, che sono uscito di casa e sentivo anche giù nel piazzale saturo. Oh, non ho ripreso, Antonello. Sono qua, dimmi tutto. Pare di no. No, ma poi gli ho detto, Antonio, siamo a un chilometro misurato. È inutile che siamo lineari, anche bombolo, sempre saturo. Siamo attaccati, cosa cazzo attaccati? Per fare tutto il lavoro, già lo sai, non per altro. Come la caramella della mummi, quindi sembra che sia saturo e un minuto mi poi agisco, 2 secondi. Ho scusato, essendo io che mi devo organizzare a fare la pizza, quindi tra organizzare, fare, dire, baciare ci vuole un po' del tempo a disposizione. Vi saluto e niente, già solo in corrizio al limite, vi ascolto così mi fate due risate. Ciao! Quello che si è parlato. Ehi, ciao Massimo, cordialità e saluti, metti a posto il microfono. Antonè, non è un'osservazione, non è un niente, ma perché non mi attacchi la radio che stavi uscendo l'altro giorno, bellissima, e ti rampi d'un tarugomo, ragazzi? Boh, io non riesco a capirti, esci bene e ti crei la vita complicandotela, attaccando altre cose. Attaccami quell'altro baracchino che stavi uscendo bellissimo, che lascialo stare liccio. E io non ti capisco, Antonè, non so quello che stai dicendo, sì, 9 più 60, tutto saturo, boh. Adesso va bene Caruccio, tu sì che mi camminevi. Ah, Antonè, io, fai la brava, siamo tutti attaccati, ti